Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. Who is but the form following the function of what? And what I am is a man in a mask. Oh, I can see that. Of course you can. I'm not questioning your powers of observation. I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is. Oh, right. But on this most auspicious of nights, permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet, to suggest the character of this dramatis persona. Voila! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vicious soise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V. Are you like a crazy person? I'm quite sure they will say so. $20, but there ain't no lesser. As for to take my sister to the picture show. Bang, bang, bang, went Frankie's gun. He shot me down. Bang, bang, bang, bang, went Frankie's gun. He shot me down. Lucille. He shot me down. He shot me down. Sha-la-la. Off a bender after long-legged Brenda died. I thought we might be on a roll this time, Frankie. I could have swore the box at Hollywood planks, but you see my mama, please tell her I left a little rock in a box in a cellar. That's for the wedding kingdom come. Bang, bang, bang went Frankie's gun. He shot me down. Yeah. seconda parte di Eclettica si è aperta con due diverse facce degli Stati Uniti del 2008, per la precisione due diverse facce dello stato di New York in questo 2008, a partire dalla faccia urbana, la città per eccellenza, ovviamente New York City, da cui provengono Religious Knives, che hanno aperto la seconda parte con The Sun, e poi invece la faccia più legata alla natura, alle montagne, The Catskill Mountains, da cui provengono The Felicy Brothers. 3 su 4 sono a tutti gli effetti fratelli. Frankie's Gun è il brano che si è appena chiuso. Ed ora invece un nuovo disco per i We Are Scientists, che sono passati all'inizio di questa stagione con una loro cover di un brano dei Sigur Rós, Hopi Pola, lo ricordate? E che sono ora usciti per Domino Records con un nuovo album dal titolo Brain Trust Mastery, dal quale vado ad estrarre After Hours. Mi piace molto giocare nello spiazzo tra il tunnel ed il monastero e come tutti i bambini mi diverto a osservare i gelsi nel giardino del monastero. Le loro foglie verdi sono un'oasi nel nostro quartiere. I neri frutti sono fonte di desiderio per noi. Il monastero è lì, simile ad una piccola fortezza circondata dal giardino. Come sempre, il portone è chiuso con un catenaccio, invalicabile. Anche le finestre sono sbarrate. Tutto l'edificio assomiglia a qualcosa di irreale, distaccato e indifferente al resto del mondo, a cui tendiamo le nostre mani come se volessimo toccare la luna. Questo era l'incipit de Il nostro quartiere di Najib Mahfouz. Who is but the form following the function of what? And what I am is a man in a mask. Well, I can see that. Of course you can. I'm not questioning your powers of observation. I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is. Oh, right. Serpents on the tartness in my chest, rest and subsides and wandled on with a hum that split its length. Does my name sting your tongue? Now does it, babe? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. far dim stretch of their street, how it aches for every gray insect, hemmed heart to coil and all frail eyes in their watch too finely told. Some shrill, sad cannonade, and one such spur that caused my throat to creak, the one dull dawn that I've sentenced to repeat. Lo faccio spesso, lo sto facendo anche ora, lo faccio spesso di invitarvi a scrivere a giulio@radiorockfm.com, dove le vostre parole, cioè i vostri pensieri, le vostre sensazioni, i vostri desideri non necessariamente devono essere legati alla trasmissione e non necessariamente i mail devono essere lunghi, come quello che mi ha scritto Alice di lunga data, ascoltatrice di Eclettica. Lei ascolta da Torino ed è rimasta fedele nonostante qualche anno fa da quella città siano sparite le frequenze terrestri. È così bello ritrovarti ogni settimana, uno dei pochi immutabili segni del percorso che ho scelto come vita. Grazie a te Alice di queste parole. E Eclettica che vi ha lasciati da soli, senza il mio intervento in voce per parecchio, con musica, con letture, con sprazzi cinematografici dal film della settimana. Per quanto riguarda la musica, in sequenza prima Q con Sei giorni nella vasca, l'artista genovese che ha scelto la lettera iniziale del suo cognome come pseudonimo, poi White Rabbits con The Plot, infine si è appena chiusa Serpentine da parte di Chris Bathgate. Mentre a tutti gli effetti Giulio Caperdoni vi saluta per quanto riguarda quest'oggi con Eclettica, con un brano di un genere che quando metto so che non rendo felici tutti. Ogni tanto ricevo qualche mail relativo all'hip hop, ma quando c'è un bel disco hip hop io in Eclettica lo metto, come questo, il nuovo della formazione di New Orleans che fa di nome Galactic, From the Corner to the Block è il nome del disco. Nel brano in questione c'è l'aiuto di Boots Riley e questa è Hustle Up. Strength, tenacity, hustle to the Sundance, not Butch Cassidy, but I am a revolver, semi-automatically, yelling fuck the police, quite emphatically, that's quite articulate, might start flipping shit, catch me on the corner with the white barbiturates, you want a story with the right particulates, see my pain in the fight, scar sentiments, circumnavigate, dope disseminate, 1967, Dale, my 88, the body's tilt it. The grill is immaculate. The cracked windshield helps it to ventilate. Feeling like it's futile. Being here's brutal. Savaging my scruples. Peeping to my pupil. Never had the slang till the rent quadruple. Got made the narrow, the yen, the ruble. And so we work the wiggle. We gotta work the wiggle. That's how we work the wiggle. Trying to get a little, little. And so we work the wiggle. We gotta work the wiggle. That's how we work the wiggle. Trying to get a little, little. Everybody on the floor. Hustle up, wrestle up, muscle up. What the fuck, everybody on the floor. Hustle up, wrestle up, muscle up. What the fuck, everybody on the floor. Hustle up, wrestle up, muscle up. What the fuck, everybody on the floor. Hustle up, wrestle up, muscle up. What the fuck. Seizing celestial, trapped on terrestrial. Standing at the intersection, gripping my testicles. It's not sexual, it's contextual. Holding on to self in this fisticuff festival. Situation critical, watch maybe digital. But since the sundown, we've been trying to get this shit to go. And that's literal, parasitical. Causing dust to blaze and other shit to hit the flow. Swagging my style, dagger in the smile. Trial by fire, hazards as a child. Soaking all the sludge, let it lather for a while. No pay high, cause the rather see us wild. It's home of the funk, not just toe tapping, oh. It's in the air, you can feel it in your clavicle. Now ain't no thing to look lateral on Capital Bro. OAK and OLA and out of murder capital. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 19, volume numero 2. Indice, Paolo Benvenu, Helvetia, Kid Harpoon, Edward Bostich, The Mountain Goats, Religious Knives, The Felicy Brothers, We Are Scientists, Ku, White Rabbits, Chris Bathgate, Galactic assieme a Boots Riley. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.